Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci, nuovo appuntamento con Europa 24. Oggi parliamo di patenti, un argomento che sta molto a cuore a noi e ai nostri ascoltatori. Chissà infatti quanti di voi ci stanno ascoltando proprio mentre sono alla guida. Ne parliamo oggi perché sono in arrivo alcune importanti novità. L'Unione Europea sta infatti lavorando nel tentativo di diminuire i morti sulle strade del vecchio continente e all'interno di questa politica sta mettendo a punto controlli medici più severi per i 500 milioni di europei. Qualche giorno fa in particolare è stata emanata una direttiva che impegna gli Stati membri a varare una legge che obbliga i conducenti di auto, moto, furgoni e camion a rispondere a specifiche domande su malattie come l'OSAS. L'OSAS è la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Se questa patologia dovesse poi essere accertata, il rinnovo della patente subirà alcune variazioni, sarà cioè più ravvicinato. Un passo importante questo da parte dell'Unione Europea se si pensa che è proprio la sonnolenza a provocare un incidente su 5, quindi davvero tanto. Sentiamo più nel dettaglio in cosa consiste dunque la nuova direttiva europea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Enrico Pagliari dell'area tecnica dell'ACI. In pratica consiste nell'inasprire, nel rendere, uso questo termine, un po' più severe le visite per il rilascio della patente ed il conseguente rinnovo. In queste visite dovrà essere valutato anche il discorso se il potenziale conducente ha dei disturbi respiratori che possono comportare anche sonno alla guida, la cosiddetta OSAS, sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Perché è importante questo passo avanti e perché è importante questa direttiva che naturalmente ora insomma ogni Stato membro poi dovrà approvare? Perché da stime a livello europeo, non solo italiane, si è valutato che circa il 22% degli incidenti deriva da sonnolenza alla guida, cioè l'autista, il conducente che ha dei problemi e si addormenta alla guida. Ben inteso, questo addormentarsi alla guida non è soltanto legato alla sindrome, alla patologia che dicevamo prima, perché addormentarsi alla guida può derivare anche da una vita dove dormiamo poco, dall'aver mangiato troppo, dall'aver assunto dei farmaci, quindi le patologie possono essere diverse. Quindi questa visita un po' più accurata nel momento in cui si rilascia il certificato che dà diritto alla patente ha proprio l'obiettivo di indagare se ci sono queste patologie. E qualora queste patologie fossero riconosciute, cosa succederebbe? Ma intanto bisogna tranquillizzare gli utenti che queste patologie possono essere curate. Il problema grosso è essere abili alla guida o non abili alla guida. Se ci sono queste patologie e si fanno delle opportune terapie, si può guidare, ovviamente dimostrando che si sta seguendo queste terapie. Ovviamente nel caso si accerti che ci sia questa patologia, la validità della patente sarà limitata a un periodo di 2 o 3 anni, quindi non nei canonici 10 anni iniziali e 5 anni seguenti, anzi adesso è ridotto sempre a 5 anni. Quanto sarebbe importante che questa direttiva venisse recepita velocemente anche dal nostro paese e da tutti gli altri dell'Europa? Ma in termini di sicurezza il prima possibile, cioè adottare subito un regolamento attuativo che stabilisca proprio le norme e le regole di queste nuove visite, a nostro avviso significa andare incontro alla sicurezza, perché l'obiettivo di questo provvedimento è rendere più coscienti i conducenti che ci possono essere dei pericoli nascosti di cui non siamo nemmeno coscienti, quindi prendere coscienza dei propri limiti sostanzialmente quando si è alla guida. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.